Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non bastava lo scandalo che ha travolto in Inghilterra grandi gruppi bancari sulla presunta manipolazione del tasso di riferimento per calcolare i prodotti finanziari, mi riferisco al tasso Libor, il tasso che fa riferimento sui tassi dei prodotti finanziari, ne abbiamo già parlato. Poi ricorderete che un mese fa parlammo anche dell'inchiesta aperta dalla Commissione europea per una presunta manipolazione, questa volta sul prezzo di riferimento del mercato petrolifero. Adesso la Financial Conduct Authority britannica ha aperto un'indagine per un sospetto di manipolazione sul mercato dei cambi valutari. Il mercato potenzialmente influenzato vale 4.700 miliardi di dollari. I veri quattro soggetti però, che da soli fanno il 50% di questo mercato dei cambi, si chiamano Deutsche Bank, Citigroup, Barclays e UBS. L'accusa o il sospetto, per essere più precisi, è di presunti ritocchi che riguarderebbero l'indice WM Reuters, che anche in questo caso è il riferimento mondiale per i cambi di valuta e che ha anche un'influenza indiretta sul mondo dei fondi di investimento, che da solo vale 3.600 miliardi di dollari. E anche qui l'ipotesi è di ritocchi, come nel caso del tasso Libor e come nel caso del prezzo di riferimento per il petrolio. Tre casi molto diversi, ma la similitudine con il caso Libor è che anche in questo caso scoppia in Inghilterra, che è la principale piazza finanziaria a livello europeo e la seconda a livello mondiale, e da un'indagine britannica. Questo è un tema. L'altro tema riguarderà invece il vertice di domani tra Italia, Francia, Germania e Spagna sul lavoro, perché oggi il ministro Giovannini ne ha parlato in diverse occasioni, ne ha parlato anche il ministro Saccomanni. In realtà non arrivano buone notizie. È vero che la Germania è in campagna elettorale, però quando leggiamo che il ministro delle finanze tedesco Schäuble dice sostanzialmente calcolare gli investimenti fuori dal deficit è una strada sbagliata, invece è una delle ipotesi possibili per arrivare a una crescita in Europa. Io dico, so che alcuni non sono d'accordo, però cito spesso l'idea di un deficit buono e un deficit cattivo. Il deficit buono è quello che serve a rendere più competitivo un paese, più produttivo un paese, a fare investimenti per il futuro. Il deficit cattivo è quello improduttivo, spese, diciamo, che non sono investimenti. Ma dicevo, Schäuble ha detto che la strada sarebbe sbagliata, quella di non calcolare nel deficit le spese per gli investimenti. È decisivo che Roma applichi le riforme velocemente, e l'alta disoccupazione giovanile anche in Italia è una sfida per tutti noi. Sarà, ma intanto è una sfida per gli italiani. I tedeschi questo problema non ce l'hanno. Domani vertice, dicevo, in giornata in cui il governo si inizia a chiedere una fase, diciamo, di iniziativa vera e propria dopo le varie dichiarazioni. Ieri i fischi al ministro Zanonato non vanno esagerati ma nemmeno sottovalutati. Stanno a significare, a mio avviso, che la cosiddetta luna di miele, cioè l'attesa, il tempo che viene dato a un governo all'inizio del suo mandato, si sta esaurendo. E su questo è tornato oggi a parlare di IVA anche il ministro Saccomanni, ma il ministro Giovannini, lo ascolteremo, ha toccato diversi punti per quello che riguarda il tema occupazione, anche perché oggi c'era l'assemblea annuale di Unioncamere e insomma i dati diffusi e ricordati dal presidente, poi li ascolteremo dal Danello, sono come sempre impressionanti. Giovannini ha chiesto comunque che si esca dalla logica piccolo e bello, fare rete è importante. Ne parleremo con calma. Per quello che riguarda i mercati finanziari, invece, la borsa di Milano in questo momento è positiva, mentre Francoforte perde lo 0,70, Parigi lo 0,1, Londra pure meno 0,07, e non poteva essere altrimenti. Dow Jones più 0,20, Milano più 0,30%, perché? Perché sta recuperando molto la Popolare di Milano più 4%, ma anche Fondieri Assai più 3,60, Mediobanca più 2,30, Intesa San Paolo più 2,20, Unicredit più 2,20, bene quindi le banche, Banco Popolare più 1,80, Ubibanca più 1,70, Popolare Emilia Romagna più 1,40%. Chi perde oggi invece Buzzi Unicem meno 3,13, Atlantia meno 2,15, Ferragamo meno 1,90, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 1,50 come Mediaset, Autogrill meno 1,1, Enel meno 1% come Eni. Euro sempre forte a quota 1,33-34 sul dollaro. 349-238-6666 per le vostre per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Restando sull'estero, oggi segnalo comunque la bruttissima chiusura di Tokyo, un'altra volta, meno 6,35%. È vero che è molto cresciuta da iniziando la borsa giapponese, ma è anche vero che i dubbi sulla intensità della Economics continuano a esserci anche sulle iniziative della banca centrale giapponese. Nel frattempo il gruppo Royal Bank of Scotland ha annunciato che taglierà 2.000 dipendenti in tutto il mondo. Pensate che dal 2008 Royal Bank of Scotland ha già licenziato 41.000 persone. Il titolo perdeva moltissimo oggi a Londra. Mentre per quello che riguarda le stime sulla crescita mondiale, la Banca Mondiale oggi ha previsto un calo della crescita mondiale nel 2013. E il motivo qual è? Vediamo se lo capiscono tutti. Il motivo si chiama zona euro, cioè la frenata della zona euro in piena fase di manovre tutte ragionieristiche su deficit e debito, nessuno mi convincerà del contrario, ha fatto frenare di conseguenza anche il resto del mondo, lo dice chiaramente la Banca Mondiale. L'economia mondiale è rallentata dalla zona euro, l'economia diventerà più stabile rispetto a prima della crisi. La crescita quest'anno dell'economia globale non andrà oltre il 2,2%. Però, il maggiore fondo obbligazionario al mondo, quindi che investe in titoli di Stato e debito anche dei privati, è PIMCO, stima che gli elevati livelli di debito abbiano aumentato a oltre il 60% le chance di recessione globale nei prossimi 3-5 anni. E poi sottolinea che l'economia sperimenta una recessione ogni 6 anni con una frequenza che tende a aumentare con elevati tassi di indebitamento. Veramente noi qui siamo ancora dentro la recessione del 2008, però... Le richieste di sussidi alla disoccupazione in America sono scese di 12.000 unità, mentre le vendite al dettaglio, sempre negli Stati Uniti, sono andate oltre le attese, più 0,6%. Venendo all'Italia, oggi la Banca Centrale Europea, nel suo bollettino, riferendosi all'Italia, ha detto che l'Italia è cruciale per l'Italia non superare il 3% di deficit nel 2014. E non venga di nuovo superato questo valore, questo è l'invito della Banca Centrale Europea. Il percorso di risanamento in Italia presenta dei rischi, è un risanamento di bilancio più graduale, quello indicato dal nuovo programma di stabilità, presenta dei rischi rappresentati da cosa? Beh, da un'evoluzione macroeconomica peggiore delle aspettative, cioè dal fatto che l'economia andrà peggio delle attese, quindi, siccome lo spieghiamo ogni volta, il deficit PIL è un rapporto, se il denominatore cala più del previsto, se il PIL si riduce più del previsto, non ti basta... per avere il rapporto finale, aver tagliato il deficit di quello che pensavi fosse sufficiente, dovrai tagliarlo di più, perché quello che interessa non è l'ammontare complessivo del deficit, è la sua percentuale sul PIL. Diminuendo il PIL aumenta il rapporto con il deficit e quindi devi tagliare di più. L'alternativa sarebbe avere un PIL che cresce più delle attese, potresti reggere un deficit anche più alto delle stime. E poi il ministro Saccomanni, lo ascolteremo nella seconda ora del programma, comunque ha detto c'è un rispetto assoluto degli obiettivi di deficit sul 2013, la situazione è peggiore delle attese, cala il gettito dell'IVA, di tutte le imposte e anche dell'IVA, sull'IVA comunque abbiamo allo studio tutto il ventaglio delle soluzioni, bloccare l'aumento costerebbe 4 miliardi l'anno, oppure potremmo fare un rinvio dell'IVA in attesa di un miglioramento dei conti pubblici. Ieri abbiamo raccontato la vicenda della COA di Porto Vesme, dove la Clash ha bloccato i negoziati per acquisire lo stabilimento. Devo dire che vorrei utilizzare questo come stacco musicale per i prossimi temi, che riguardano anche altre notizie. Devo dire che c'è un gruppo che sta spopolando sulla rete, ed è si chiama Gola Secca, è una formazione musicale composta da precari, interinali e cassi integrati dell'Alcoa di Porto Vesme. Sono anche stati a Sanremo, qualcuno forse li ricorderà. Hanno realizzato un video dove viene sintetizzata la filosofia e la storia della band. Io vorrei ascoltarlo, anche perché cantano la loro rabbia sulla crisi del Sulcis, ma anche una voglia di riscatto. Allora usiamo questo gruppo, così magari li facciamo conoscere, magari vendono di più, e magari, essendo tutti cassi integrati, precari, interinali dell'Alcoa di Porto Vesme, che ieri ha ricevuto l'ennesima brutta notizia, magari può servire anche la nostra modestissima iniziativa. E utilizzando appunto come base i Gola Secca, cassi integrati, precari, interinali di Porto Vesme, dell'Alcoa di Porto Vesme, io vorrei leggere altre notizie prima di arrivare al primo tema. Per quello che riguarda la Fiat, oggi Sergio Marchionne ha detto: dobbiamo scommettere sul futuro dell'Italia, serve uno scatto di orgoglio, un piano, un patto sociale, un piano Marshall per l'Italia, chiamatelo come volete. Sì, peccato che il piano Marshall, quando fu lanciato, non esisteva in Europa il patto di stabilità, perché sennò col cavolo che passava il piano Marshall per la ricostruzione del dopoguerra. Noi crediamo e investiamo in Italia, ha aggiunto Marchionne, ora il primo compito è ridare lavoro, in 3-4 anni vi sarà il pieno impiego dei lavoratori della Fiat. Ultima notizia riguarda il mercato immobiliare, dove si conferma una brusca, estremamente brusca frenata nel 2012. Il numero di rogiti nel 2012 è crollato del 22%, meno 22% rispetto al 2011, e pensate, meno 43% rispetto al 2006, che è stato l'ultimo anno di crescita del mercato, di crescita consistente del mercato immobiliare. I mutui meno 37,5% come numero, non come valore, ma tra l'altro, se anche lì guardiamo al 2006, siamo alla metà, a più della metà dei mutui, cioè meno 54%. Meno 54,5% per la precisione. Sui prezzi dell'immobile ancora saranno ancora in calo nel 2013-2014, meno 2% al netto dell'inflazione, perché poi uno deve anche sommare su questo l'inflazione. Pensate che in 5 anni il calo medio del prezzo del mattone sarà di quasi il 14%, perché è un meno 2 a cui devi sommare per esempio meno 2 quest'anno, qui devi sommare quello che è il valore dell'inflazione, che è più o meno sull'1,2-1,5%, perché poi è al lordo dell'inflazione. Al netto dell'inflazione il calo arriverà a essere del 14% in 5 anni. Una buona notizia per chi vuole comprare casa, una pessima notizia per chi la deve vendere. E la stessa Banca d'Italia, però, che dice una cosa che ripetiamo da tempo anche sull'IMU. L'IMU può avere un senso, diciamo, come tassa patrimoniale se il catasto di questo paese viene aggiornato, perché la Banca d'Italia fa notare che il divario tra i valori del catasto e gli effettivi valori del mercato avvantaggia soprattutto i ricchi, ma questo è palese, nel senso che più la casa vale rispetto al catasto, più ne hai un vantaggio. Allora, è ovvio che alcune aree che da un punto di vista catastale valgono pochissimo, ma che invece hanno avuto un boom con appartamenti da 500, 1 milione, 2 milioni di euro, beh, vanno a vantaggio di chi questi appartamenti se li può permettere, ma non solo per l'IMU, in generale. E la Banca d'Italia dice che ci vorranno 5 anni per riformare il catasto. L'IMU viene definita come un prelievo opaco, e tra l'altro perché le interferenze tra la politica tributaria e la fiscalità locale rendono il prelievo opaco, occorrerebbe destinare tutto il prelievo, tutta l'IMU, ai comuni. Crollerà un altro muro, lo santo. Dunque, lotta all'evasione, mi chiede un ascoltatore, hanno dato anche lei il diktat di non parlare della lotta all'evasione. Guardi, abbiamo fatto una puntata la settimana scorsa sui redditi dei lavoratori autonomi, mi sono beccato qualche decina o centinaio di insulti via sms, mi sembra che non abbiamo mollato il colpo su questo, con tutta l'equilibrio che la materia necessita, cioè la lotta all'evasione va fatta, soprattutto sulla grande evasione, sugli utili che vengono registrati da società quasi sempre presenti all'estero e in luoghi in cui la fiscalità è di vantaggio. Va fatta anche con gli studi di settore, ricordandosi però che non è che con l'accanimento dello studio di settore sui piccoli artigiani, commercianti e quant'altro, imprenditori, che andiamo a fare la lotta all'evasione. Dopodiché alcune delle dichiarazioni dei redditi medie che abbiamo letto gridano vendetta: gioiellieri, tassisti, ristoratori, devo fare la lista di nuovo, albergatori e quant'altro, tutti tra i 15 e i 18 mila euro, in moltissimi casi guadagnano meno dei loro dipendenti. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora partiamo con l'emergenza occupazione, ormai è un tema ricorrente. Se ne è parlato oggi anche nel corso dell'assemblea di tutti i presidenti delle Camere di Commercio, l'assemblea di Union Camere. Union Camere oggi, nel parlare di giovani, però si concentra non solo sulla disoccupazione, ma su qual è una stima che quasi mai leggiamo: il valore aggiunto prodotto dagli oltre 3.800.000 giovani occupati in Italia. È un valore importante, nonostante la disoccupazione giovanile sia a record storico e superi il 30%, perché vale il 17% del PIL, cioè 242 miliardi. Praticamente il valore aggiunto, il contributo dei giovani all'economia nazionale, pari all'apporto che ha l'intero settore manifatturiero in questo paese, e sono 675.000 le imprese in mano a persone sotto i 35 anni. La buona notizia è che sono aumentate lo scorso anno del 10%. E su questo il nostro Jacopo Matano ha raggiunto il presidente di Union Camere, Ferruccio Dardanello. Tra le condizioni, questi 4 milioni di giovani che oggi operano all'interno del sistema produttivo italiano e che contribuiscono con quasi 250 miliardi del PIL, di inserirsi meglio e di dare un contributo al nuovo modello di sviluppo del nostro paese. Quindi una facilitazione per l'ingresso all'interno del mondo del lavoro, una facilitazione grande per chi vuole fare impresa, per dargli le opportunità, anche le risorse per poterli stimolare e mettere insieme un paese meno burocratizzato, dal col quale incominciare un nuovo processo di crescita e di sviluppo per andare verso il futuro. E poi l'intervento del ministro Giovannini, che ha invitato i giovani a farsi un giro a Silicon Valley per vedere come funziona, perché non diventino vecchi mentalmente. Sì, servono anche i soldi, ministro, per andare a Silicon Valley, non è che un giovane ci va così gratis. Va benissimo, è giusto l'invito a non sedersi, a non limitarsi a guardare l'orticello e avere atteggiamenti provinciali, però insomma, dire andate a Silicon Valley, sì, poi finisce che ci vanno solo quelli che hanno i papà che gli pagano il viaggio, eh. E poi invece l'appello, attenzione, piccolo non è sempre bello, può essere anche inefficiente, cercate di fare rete. I dati del recente censimento ci mostrano come l'ostacolo alla crescita delle imprese talvolta è il desiderio da parte del piccolo imprenditore di tenere il controllo dell'impresa, non affidandosi a dei manager. Noi siamo cresciuti con i distretti, che poi sono andati in crisi in alcuni casi. Perché? Perché internet consente ad altri di fare rete non di prossimità ma di lontananza, i cosiddetti dislarghi invece che i distretti. Allora, questo cambiamento culturale è forse una delle caratteristiche più forti dei giovani. Allora, forse anche in questo caso le camere di commercio possono aiutare a far rete e a cambiare la cultura in modo che le nuove imprese che partono piccole facciano parte di una rete che insieme può diventare molto più forte. Questo credo che sia una caratteristica necessaria perché, come dicevo, non sempre piccolo è bello. Ancora, vedo che c'è chi dice no, guardi, sull'evasione lei sbaglia perché l'evasione si combatte a ogni livello, anche con i piccoli. Altrimenti io ho detto solo una cosa diversa, ho detto sono inaccettabili le dichiarazioni di redditi che ogni anno commentiamo, che vedono categorie professionali che sappiamo non essere povere, oppure mi dite che vivono con 800 euro lordi al mese i gioiellieri, gli albergatori, i ristoratori, devo fare la lista di nuovo? E tra cui anche i tassisti, inutile che i tassisti si arrabbiano ogni volta, so benissimo che magari le dichiarazioni di redditi in alcune aree del paese sono più alte che in altre aree, però la dichiarazione media l'avete letta, no? Cos'era? 6.000 euro, poi se lo faccio richiamare in regia. Ho detto solo, siccome riceviamo anche molte mail, e le abbiamo ricevute anche ai tempi dell'iniziativa Disperati Mai, in cui l'Agenzia delle Entrate o Equitalia si avvicinano all'accanimento in un settore che è massacrato come quello del commercio, dell'artigianato, dei piccoli imprenditori, ho detto va bene gli studi di settore, non limitiamoci però solo ai pesci piccoli, andiamo a guardare anche se non ci sia un'elusione quantomeno fiscale in grandi gruppi, società di servizi finanziarie che spesso pagano le tasse non in Italia, tutto qui. Cioè non facciamo i forti con i deboli e i deboli con i forti. Ancora, dicevo del ministro Giovannini che ha detto escludiamo di rifare la riforma del lavoro, l'aveva detto ai nostri microfoni anche venerdì scorso quando era ospite nostra a Santa Margherita Ligure, e poi ha spiegato che il governo conta di fare un intervento significativo sul tema dei servizi all'impiego. Sentiamo questo passaggio. Noi contiamo di fare un intervento significativo anche sul tema servizi all'impiego, dove sappiamo di avere un problema come Italia, non solo perché spendiamo un decimo di quello che spendono altri paesi europei, ma perché abbiamo competenze sparse. Ed è per questo che vogliamo in primo luogo costituire un soggetto, una struttura che metta insieme senza burocrazia tutti quelli che oggi hanno informazioni sul mercato del lavoro, politiche passive e politiche attive, e quindi il sistema camerale sarà della partita, per riuscire intanto a sbloccare quello che è la mancanza di informazione. Questo è un tema delicatissimo perché oltre al disastro della disoccupazione giovanile a record storico, noi abbiamo ancora un sistema che ha difficoltà a incrociare i dati, e cioè a capire esattamente quale sia la massa di lavoratori giovani veramente in cerca di lavoro. E su questo rimettere mano a tutta la struttura fatta di agenzie di collocamento pubbliche, ma anche di molte agenzie private che di somministratori di lavoro, sarebbe il minimo. Cioè avere, non so se si possa immaginare nel 2013 un unico database in cui si cerca di capire, e anche incrociare ogni tanto le richieste e le offerte. C'è un tasso fisiologico di non incrocio tra domanda e offerta, per cui il panettiere che viene cercato a Milano difficilmente poi incrocia l'offerta che è magari a Reggio Calabria o a Udine, però c'è un tasso anche patologico nostro perché non riusciamo a avere un sistema efficiente che monitorizzi in qualche modo sia la domanda che l'offerta. La delega fiscale, avremo un'accelerazione in tempi rapidi, ha detto Giovannini, e poi un passaggio che invece vorrei far ascoltare sulle polemiche, devo dire anche mie in questi giorni, su un governo tutto concentrato, una politica, sulla riforma costituzionale, il presidenzialismo. Io ho detto sì, tutto bene, Quagliariello, la Finocchiaro, tutti temi che interessano tantissimo il paese, no? D'Alema, cioè il paese sta morendo, lo ripeto con più calma rispetto a ieri, il paese sta morendo e da giornalista lo dico, vedere che dobbiamo occuparci ancora di capire come riformeremo la Costituzione, manca solo che venga riesumata la bicamerale, fate sta cavolo di riforma elettorale, è 2 anni che ne parliamo, mettetevi d'accordo, però andiamo sui provvedimenti concreti, non è che noi mangiamo la riforma elettorale e portiamo i figli in vacanza con il premio di maggioranza, ma stiamo scherzando? O cosa deve capitare ancora a sto paese perché qualcuno si svegli e capisca che i tatticismi, diciamo, da bicamerale, ognuno capisca quello che vuole, li lasciamo agli anni 90 e ai leader politici di quegli anni. Comunque Giovannini invece dice no, attenzione, la riforma della Costituzione non è una perdita di tempo. Cambiare il titolo quinto della Costituzione nella direzione che si deciderà è una riforma costituzionale altrettanto importante come altre riforme costituzionali. Allora, quando si dice il governo ha perso tempo inizialmente con le riforme costituzionali, io non la capisco questa critica, perché quello è un pezzo importante del cambiamento. Certo, ci limitassimo soltanto a quello, allora saremmo giustamente criticati, ma il fatto che abbiamo cercato di avviare il prima possibile il cambiamento costituzionale e la costituzione di questa commissione dei saggi serve per colmare il buco tra oggi e il momento in cui il Parlamento avvierà la nuova, diciamo così, commissione bicamerale, è un modo per guadagnare tempo, non per perderlo. Allora, ha ragione il ministro Giovannini che è importante anche quello. La critica forse, ma ne parleremo nella seconda ora del programma, è che i giornali, colpa anche dei giornali, dei giornalisti, si sono riempiti in queste settimane delle varie posizioni che, ripeto, non fregano niente a nessuno in questo momento nel paese. Io voglio sapere quanti italiani si eccitano leggendo delle possibili ipotesi di riforma costituzionale. No, quanti si eccitano e quanti lo ritengono fondamentale per il loro destino. Vorremmo sapere invece cosa farà il governo con Bruxelles, quanto punterà i piedi nei confronti dei paesi del nord dell'Europa e come andrà a fare alleanze, quali saranno le misure per i giovani, le politiche sul lavoro, cosa farà dell'IVA, dove intende usare le risorse per la riduzione fiscale, quelle poche risorse che ha, spargerle così verso tutti o concentrare per esempio sul cuneo fiscale e sulla tassazione del lavoro, che è quello per inciso che è tornato a chiedere oggi il presidente Confindustria Squinzi. Priorità assoluta per me è il lavoro, è un intervento determinato sul costo del lavoro, perché soltanto riducendo, allineando il costo del lavoro alle medie europee, quindi da cui in questo momento siamo abbastanza lontani, possiamo sperare di ritrovare la crescita. E poi il leader della CGIL Susanna Camusso dice sulla riduzione del cuneo fiscale no a una distribuzione a piogge. Io penso che la priorità sia dare risorse a quelle imprese che investono e creano occupazione e non continuare con provvedimenti di distribuzione di risorse a pioggia che non si traducono in risultati concreti per lo sviluppo del paese, perché la priorità è quella di determinare gli investimenti e l'utilizzo di tutte le risorse per creare dei posti di lavoro. Sulla stessa linea anche il segretario della CISL Raffaele Bonanni, che ha detto l'intervento sul cuneo fiscale, quindi sulla tassazione del lavoro, sia mirato e quindi lasci soldi ai lavoratori e ai pensionati per aumentare i consumi, e devo dire anche il leader della UIL Angeletti. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi andiamo a commentare la borsa, lo scandalo che sta scoppiando in Inghilterra sulla manipolazione dei tassi di cambio, e poi torniamo a parlare della fine della luna di miele tra l'opinione pubblica e il governo Letta. Mi sembra molto chiara, ma senza nessun tipo di polemica, diciamo semplicemente che insomma, vogliamo adesso le misure, anche perché, ripeto, i dati che stiamo commentando questa settimana sono un altro massacro. sono tutti negativi e peggiorativi. Che cosa altro deve capitare? Beh, il meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora vedo moltissimi messaggi, non posso leggerli tutti, ma non cambio opinione, nel senso che vogliamo il pacchetto. Poi secondo me c'è anche questa, dice lunga sulla distanza della politica. Fate, ragionate, trovate un accordo e poi presentatecelo sulle riforme costituzionali. Non me ne frega niente di sentir parlare i soliti leader politici che non hanno concluso un niente negli ultimi 20 anni. Da bicamerale avevo appena iniziato a fare il giornalista io, quando D'Alema e Berlusconi erano lì con la bicamerale. Ma basta, il mondo è cambiato, siamo gli unici ancora a guardare D'Alema e Berlusconi sulla bicamerale. Basta, sto zitto se no esagero. La borsa invece più 0,60% e in questo momento la chiusura. Francoforte meno 0,60%, Parigi più 0,11%, Londra più 0,11%, l'America più 0,40%. Bene, oggi le banche, nonostante un'asta non fantastica, nel senso che il tasso dei BTP a 3 anni che oggi abbiamo collocato per 3 miliardi e 400 milioni è salito al 2,38%, contro l'1,90% che avevamo offerto a marzo. E il tesoro, il rendimento è salito anche sui BTP a 15 anni, ne ha collocati 1,5 miliardi, il tasso è al 4,67%. Addirittura uno mi dice: non parli male dei giornalisti, sta diventando una moda. Boh. No, non parlo male dei giornalisti, dico solo che se i giornali perdono copie, i telegiornali anche, forse bisognerebbe anche dare notizie che non siano solo una partita di giro con l'elite politico-economica di questo paese, ma che interessino anche tutti i lettori. Questo dico, no? Perché se mi dite che un lettore si appassiona a 2 pagine sulle proposte di riforma costituzionale, io non ci crederò mai, neanche dopo morto. A 280 punti comunque lo spread oggi, quindi resta sui livelli di guardia. E oggi il commento di borsa lo facciamo con il responsabile mercati sviluppati, quindi America, Unione Europea, Giappone, Italia, di Aletti Gestiel SGR, Pierluca Beltramelli. Buonasera. Buonasera. Responsabile mercati sviluppati, non è bellissimo, cioè, ci sono anche i mercati sottosviluppati, no? No, ci sono i mercati emergenti e mercati emersi. Anche perché guardi che la Grecia è finita nei mercati emergenti adesso, l'ha visto ieri. Sì. Per cui occhio a definirsi emergenti ed emersi. C'è un bellissimo libro, se non ricordo male, di Pavese, Sommersi e Salvati, però non vorrei dire un'inesattezza, era di Primo Levi forse. Primo Levi, Sommersi e Salvati, qui emersi, emergenti, vabbè. Andiamo sui titoli. Come mai le banche oggi vanno bene nonostante all'Italia sia costato di più trovare finanziatori per il suo debito? Cioè i rendimenti di BTP, dei BTP sono saliti sia 3 anni che 1,5 anni? Ma le banche vanno bene in quanto avevano già anticipato il movimento sui tassi. Le banche erano, negli ultimi 10 giorni sono scese costantemente tutti i giorni e hanno sottoperformato l'indice di riferimento italiano, ma anche in Europa più o meno il trend è stato simile, quindi è un trend che è avvenuto anche a livello europeo. Oggi sicuramente la stabilizzazione comunque dei tassi, perché alla fine il tasso decennale italiano si è stabilizzato, ha creato un'opportunità per chiudere alcune posizioni e probabilmente anche il settore è rientrato in valutazioni più coerenti e più interessanti per gli investitori, quindi alla fine il settore si muove soprattutto per un recupero dovuto alle perdite importanti avvenute in poco tempo, quindi all'alta volatilità che c'è stata ha creato comunque delle perdite consistenti. Ecco, si temeva molto questa mattina l'effetto Tokyo, che ha preso un'altra sberla, 6,30%, non c'è stato, mi sembra. No, direi che oggi sono, come si diceva prima, i mercati sviluppati a stabilizzare la situazione finanziaria. Le economie emergenti nella nottata hanno avuto ancora problemi abbastanza forti in Cina, in Giappone. Oggi però i mercati finanziari, sia quello americano che quello europeo, si sono stabilizzati. Direi che siamo in attesa della prossima settimana, dove ci sarà la riunione della Federal Reserve. Quindi sicuramente lì il mercato troverà degli spunti interessanti per eventualmente sfruttare posizioni anche a rialzo, in quanto comunque il tema dominante è quello del rialzo dei tassi in America. Quindi tutto è partito da lì, ha coinvolto le economie emergenti in maniera... Non è che l'America può andare avanti, adesso è una ricetta che ha funzionato, ma non può andare avanti a stampare moneta, tenere i tassi a zero, imbarcare deficit tutta la vita, assolutamente no. Non voglio diventare tedesco infatti, confronto agli americani, però insomma qui esageriamo in un senso, lì forse si stanno spingendo un po' troppo nell'altro. Prego. No, direi che sicuramente il trend di medio periodo è quello, cioè il rialzo dei tassi non è una preoccupazione se avviene in maniera ordinata nel medio periodo, anche perché oggi il rialzo dei tassi americani è dettato essenzialmente da dati macroeconomici più forti delle attese. Quindi il rialzo dei tassi è assolutamente... Sì, cioè l'America va meglio delle attese, quindi prima o poi i tassi devono salire. Il problema di quest'ultimo periodo è stata la volatilità molto elevata con cui si sono mossi i tassi, quindi il rialzo è stato troppo violento nel breve termine. Ho le informazioni sul traffico, due risposte velocissime. Perché tassi, perché quando, allora, la politica monetaria funziona così, brevemente: quando l'economia va bene aumenti il costo del denaro perché raffreddi un'economia che rischia di surriscaldarsi e quindi di generare troppa inflazione, prezzi in aumento; quando l'economia va male abbassi il costo del denaro, questo è il tasso di interesse, perché rendi più facile l'accesso al denaro teoricamente, perché se poi le banche non lo abbassano hai fatto poco. Ma ecco perché l'America ha tenuto i tassi bassissimi, ha stampato moneta per tutti questi anni, adesso, siccome questo però ti porta a imbarcare anche deficit, adesso deve, se l'economia dimostrerà di essere sulla strada giusta, tornerà a rialzare i tassi in modo da non creare una bolla per eccesso di denaro a basso prezzo, ok? E anche per rientrare un po' sul deficit che ha accumulato, che è un deficit che in Europa sarebbe inaccettabile, viaggia sul 9%. Adesso abbiamo il traffico e poi gli altri titoli. Devo solo dare una risposta a chi mi dice: ma insomma, lei non capisce che le riforme costituzionali servono, abbiamo tempi di approvazione per leggi lentissimi. No, ho detto solo che in questo momento vorrei delle misure di emergenza per la vera emergenza del paese. Poi maggioranza, i partiti che sostengono il governo si mettono d'accordo, hanno i numeri, fanno le riforme costituzionali, ok? Iniziare con i 40 saggi e parlare tutti i giorni di 40 saggi, a mio avviso, è fuorviante. Fate sto cavolo d'accordo e la riforma, tagliate un ramo del Parlamento, così ogni volta non facciamo Camera e Senato, tagliate il numero dei parlamentari e basta, è morta lì, date dei poteri di più al Presidente del Consiglio, trovate un cavolo d'accordo, siete lì per questo, non per fare le commissioni dei saggi, come se gli altri fossero tutti mona e poi invece i saggi li mettiamo in commissione. Dai, traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Beltramelli, al di là dei saggi non posso fare la puntata su questo oggi, ma ogni tanto l'è morta, non la pietà in questo caso, ma la pazienza. Buzzi unici a meno 2,70, Atlantia a meno 2%, Mediaset meno 1,30, come Autogrill l'1% lo perde anche Azimut. Tra i titoli abbiamo visto Parmalat più 3,35% in vista dell'assemblea? Sì, direi che su Parmalat non ci sono particolari notizie relative al business ordinario, ma sicuramente c'è un po' di attenzione per l'assemblea, per la riconferma di alcuni attori all'interno del board, quindi perché quello è l'unico catalyst, ma a livello di business non ci sono notizie particolarmente rilevanti da evidenziare. Ancora tra i titoli, oltre ai bancari di cui ricordavamo, bene le utilities energetici, Saipem più 1,10, Enel più 1, Generali più 1%, male invece Atlantia meno 2, Mediaset meno 1,35, Autogrill meno 1,34 e anche Enel Green Power meno 1%. Migliori e peggiori in assoluto, RCS Media Group più 12,70%. Come andrà a finire secondo lei alla Rizzoli Corriere della Sera? Alla fine diciamo che oggi proprio stanno definendo i dettagli dell'aumento di capitale, credo che ci sia ancora in corso un CDA, quindi difficile commentare oggi quali saranno gli sviluppi, di sicuro insomma è una società che ha bisogno di questo aumento di capitale per la sostenibilità finanziaria del gruppo, quindi sarà fondamentale che uno questo aumento si faccia e che chiaramente poi ci sia anche un azionariato che sostiene questo aumento di capitale. Oggi siamo proprio nelle fasi decisive, quindi aspettiamo di vedere quali sono i dettagli. Vediamo chi ci starà dentro, esatto, e chi no. E Seat pagina gialla più 5,56, e sul fronte opposto Arena meno 8,33%, Antichi Pellettieri meno 7,5%, Sintesi meno 4,60%. Grazie al responsabile dei mercati emersi, la voglio chiamare così, America, Unione Europea, Giappone, Italia, per Aletti Gestielle, SGR, Pierluca Beltranelli. Grazie a voi, buonasera. Adesso andiamo col GR e poi lo scandalo che sta emergendo sui cambi apparentemente truccati in Gran Bretagna, e poi facciamo il punto anche politico. Domani c'è un vertice importantissimo sul lavoro a Roma, Italia, Germania, Francia e Spagna. Non è una barzelletta, dopo il GR. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, prima di arrivare poi all'appuntamento, all'agenda politica del governo Letta, dicevamo non bastava lo scandalo LIBOR o LIBOR, come lo si voglia pronunciare, quello che ha coinvolto parecchie banche in Gran Bretagna con l'accusa di aver manipolato il tasso che funge come riferimento sui tassi dei prodotti finanziari e che ha dietro un controvalore di 350 mila miliardi di dollari. Non bastava lo scandalo LIBOR, non bastava l'inchiesta aperta dalla Commissione Europea, ossia un'indagine su una presunta manipolazione, questa volta dei prezzi petroliferi, l'indice Platts, ne parlammo un mese fa, e quindi un mercato che ogni giorno vede scambi per 6.500 miliardi di dollari. Adesso la Financial Conduct Authority britannica ha avviato un'indagine preliminare per un sospetto di manipolazione del mercato dei cambi valutari ad opera dei grandi operatori. Il mercato potenzialmente influenzato vale 4.700 miliardi, ma in realtà sono quattro i soggetti che da soli raggruppano il 50% delle operazioni. Sono Deutsche Bank, Citigroup, Barclays e UBS. E su questi si sta orientando l'indagine. I presunti ritocchi riguarderebbero l'indice WM Reuters, che è il riferimento mondiale per i cambi e che ha un'influenza indiretta anche sul mondo dei fondi di investimento, che vale a sua volta 3.600 miliardi di dollari. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna, buonasera. Buonasera a voi. Allora Leonardo, citavo il caso LIBOR e quello sui prezzi petroliferi. Qui l'accusa, o perlomeno l'indagine, su cos'è? Perché manipolare il mercato dei cambi valutari, detta così, sembra quasi impossibile, visto il numero di transazioni e la massa monetaria che c'è dietro. Infatti, cioè, il meccanismo è ancora tutto da definire, perché sono dei sospetti. Comunque, uno dei modi è che, siccome c'è una finestra di 60 secondi ogni ora per il fixing di alcune valute, soprattutto quelle meno liquide, cioè non necessariamente euro-dollaro, ma valute minori, bene, il sospetto è che i traders prendano gli ordini dai loro clienti, li eseguano e poi, siccome quegli ordini vengono poi, come dire, pagati al fixing che avviene in quei 60 secondi di ogni ora o ogni mezz'ora a seconda della valuta, che poi in quei 60 secondi facciano partire ordini fittizi creando un fixing diverso, quindi il benchmark diventa diverso rispetto a quello, il benchmark che è il valore cui poi il cliente paga è diverso da quello che è stato effettivamente realizzato, perché l'operazione era avvenuta in un momento diverso precedentemente. Quindi, non so se è chiaro. Sì, quindi la manipolazione arriverebbe, uso condizionale perché d'obbligo, certo, attraverso ordini fittizi, cioè. Per cui poniamo che ci sia adesso un rapporto di cambio dollaro-euro, no? A 1,30, io immetto nel sistema ordini fittizi, poniamo per un rapporto di cambio a 1,35, quindi faccio salire il rapporto di cambio e questo è il è quello che vado a praticare poi al cliente. Esatto, questo è il sospetto, perché al cliente viene poi applicato il valore del benchmark di riferimento. Se quel benchmark viene manipolato o con ordini fittizi o concentrando certi ordini o con operazioni che sono ancora in corso di definizione, beh, chiaramente il cliente, cioè la banca o l'istituzione ha un guadagno rispetto al danno del cliente. È chiaro che questo è un mercato che non è regolamentato, sostanzialmente è fuori anche dal MiFID, della direttiva della direttiva europea, quindi è molto difficile stabilire responsabilità precise. È chiaro che se ci fosse una concertazione, come dire, un'azione condivisa fra diverse istituzioni, fra diversi trader, perché poi la ricaduta è che su tutto questo poi c'è la cosiddetta cultura dei bonus, cioè se io trader faccio un tot di operazioni, garantisco questi benefit, eccetera, poi il mio ho un diretto vantaggio da questo genere di operazioni. Un'ultima domanda, Leonardo, com'è che è nata questa inchiesta? Perché insomma tutto si può supporre. Prego. Questa è stata una denuncia raccolta da uno scoop di Bloomberg, l'agenzia americana, che ha raccolto le testimonianze di 5 trader o ex trader che hanno, in modo anonimo, raccontato il meccanismo. No, devo dire questa cosa è stata esposta. In realtà non è chiaro se la Financial Conduct Authority stesse già investigando per conto suo, perché c'erano già stati dei rumors in passato, però la cosa è venuta per certi versi in modo più evidente a galla dopo questo scoop. Ma chissà se poi la Gran Bretagna continuerà a difendere, diciamo, il primato della finanza, come vediamo fare sempre anche in Europa dopo tutti questi scandali, ammesso e non concesso che questo sia uno scandalo. Certo che se dovessimo vedere confermate manipolazioni sull'Libor, quelle già le abbiamo. Sul prezzo del petrolio e anche sul valore dei cambi, quello che faceva Fiorani alla Popolare di Lodi, Popolare Italiana, è una roba da dilettante, proprio una roba agraria, perché qua i grandi big della finanza che ci danno lezioni tutti i giorni invece hanno raggiunto picchi inesplorati. Prego, Leonardo. No, ma non c'è dubbio che tutto questo mondo dei benchmark deve essere regolamentato. Ah, sì, dai, e finora non lo è stato. È molto difficile da fare, è veramente complesso. Ne parlavo adesso con... È molto difficile da fare, soprattutto se non si vuole, Leonardo, perché sì, sappiamo, certo, che il potere della lobby della finanza in Gran Bretagna e negli Stati Uniti è al primo posto quanto a forza e potere. Grazie, Leonardo Maisano. Temo che ci risentiremo, nel senso che se lo scandalo scoppia vero e proprio, avrà un impatto anche più forte rispetto a quello dello scandalo LIBOR, perché voglio dire, sia il petrolio che i cambi sono due mercati non regolamentati ma fondamentali. Ha ragione l'ascoltatore che ha appena scritto. Grazie, corrispondente dalla Gran Bretagna del Sole 24 Ore. Il traffico e poi l'ultimo tema, questa luna di miele non è ancora una luna di fiele, però che di miele ce n'è rimasto molto poco tra l'opinione pubblica e il governo Letta. La domanda pressante che arriva non dall'opinione pubblica in generale, da tutte le categorie produttive, artigiani, commercianti, industriali, sindacati, è: fate qualcosa sul lavoro e sui consumi, quindi sulle tasse sul lavoro. Ma si discute ancora molto di IVA. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ricordo che domani vi sarà questo vertice tra Germania, Italia, Francia e Spagna sul mercato del lavoro a Roma, e il motivo per cui il Consiglio dei Ministri è spostato a questo punto a sabato. Traffico. Mi piacerebbe essere qua e potervi dire: non aumenteremo l'IVA. Non è che non lo voglio fare, è che non lo posso in questo momento fare. Si tratta, figuratevi quanto mi piacerebbe potervelo dire, si tratta di una decisione che è stata presa Va bene, dai, forza, che continua il mio intervento. Si tratta, attenzione, spieghiamoci su queste cose perché serve poco. Cerchiamo di capirci. La volontà di farlo resta, è forte, c'è un lavoro, non posso dirvi che lo siamo in grado di farlo. Va bene, si tratta di una decisione che non è stata presa dal mio governo, dal governo a cui partecipo, e il corrispondente incremento di gettito è già all'interno del bilancio dello Stato. Se noi sospendessimo per portare al prossimo anno l'incremento IVA, dovremmo trovare 2 miliardi nel bilancio, tagliando o le spese mi scuso se in 40 giorni non abbiamo ancora risolto questo problema, cerchiamo di capire di che si tratta. Per evitare, dicevo, questo incremento occorre individuare nuove entrate o ridurre le spese, che a regime aumentano a 4 miliardi l'anno. Teniamo presente che questa cosa non si può considerare isolata da altre misure che abbiamo adottato. Quella, per esempio, di bloccare l'IMU, che ha lasciato nelle tasche dei cittadini italiani 2 miliardi di euro e che ci impegna a riformare complessivamente questa partita, o alla questione di cui vi ho parlato poco fa, del miliardo trovato per la cassa integrazione in deroga. A mio avviso è tutto, l'abbiamo fatto risentire quello che è successo ieri alla Confcommercio mentre parlava il ministro Zanonato, perché insomma, quando partono i fischi all'assemblea dei datori di lavoro, l'abbiamo visto capitare col governo Prodi, col governo Berlusconi, vuol dire che la luna di miele è finita. Oggi il ministro Saccomanni ha detto che sull'IVA sono allo studio tutte le ipotesi e che comunque vi sarà un rispetto assoluto dei target, degli obiettivi sul deficit 2013, come ha chiesto oggi anche il ministro delle finanze tedesco Schäuble e la Banca Centrale Europea. Nel salutare Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Buonasera a voi. Sentiamo questo passaggio anche di Saccomanni sull'IVA. L'IVA svolge un ruolo fondamentale nella costruzione delle misure che hanno consentito all'Italia di uscire dalla procedura di disavanzo eccessivo, ma sono all'esame anche possibilità di ridurla di 3 mesi o di rinviarla per un periodo di tempo che consenta di guardare un pochettino con più chiarezza all'evoluzione della situazione economica, che potrebbe, ripeto, superata questa fase di incertezza, potrebbe mostrare qualche segnale di miglioramento, dato che tutti gli istituti di analisi continuano a proiettare una ripresa dell'attività economica verso la seconda parte dell'anno. Quindi è chiaro che il discorso dell'impatto dell'aliquota sul gettito dell'imposta è un discorso che va visto in un contesto più ampio. Certamente, come si dice, ceteris paribus, un aumento dell'aliquota può deprimere i consumi, ma dipende anche da qual è la situazione generale dell'economia. Effettivamente ci siamo trovati in un momento, una congiuntura negativa che è proseguita più severa del previsto, ma pensiamo che questo non sia necessariamente un rapporto causalità uno a uno. Ma non si è capito una mazza, mi scusi ministro, cioè voglio dire, allora che cosa ha detto Saccomanni? Ha detto attenzione, l'IVA può avere o non avere un effetto prociclico, cioè aumentare la recessione, purtroppo avverrebbe questo aumento dell'IVA in un momento in cui l'economia va male, peggio del previsto, quindi ce l'avrà. Poi ha aggiunto il ministro Saccomanni, sempre al Senato, rispondendo a alcune interrogazioni, IMU e IVA, levarle costano 4 miliardi a testa, cioè 8 miliardi, se volessimo eliminarle dovremmo trovare interventi compensativi di estrema severità che al momento non sono rinvenibili, cioè dovremmo trovare questi 8 miliardi da un'altra parte, non sappiamo dove, così la capisco io. Guido Gentili, ti lascio ampio spazio per capire se è finita la luna di miele e se ho esagerato io nel dire che l'opinione pubblica non sta capendo una politica in questo momento di nuovo tutta concentrata a modello bicamerale sulla riforma costituzionale, che è importante, ma fatela e diteci cosa avete deciso e quanto, che cosa potrà darci questo governo, visto che entro fine giugno deve arrivare il pacchetto giovani lavoro, quindi immaginiamo anche qualche misura di defiscalizzazione. Però Saccomanni oggi ha detto ragazzi costano 8 miliardi l'IMU e l'IVA, quindi non sappiamo, al momento non sono rinvenibili altri interventi che compensino l'eliminazione dell'aumento dell'IVA e dell'IMU. Sì, io credo che non bisogna buttarsi su alcune illusioni. La prima è che ci siano risorse per fare tutto e tutto insieme. E come hai ricordato tu, IVA e IMU significa intervenire per qualcosa come 8 miliardi, mm-hmm. in ciascuna 4 miliardi all'anno, quindi si tratta di una cifra importante, e anche se l'IVA la rimandiamo per soli 6 mesi sono comunque 2 miliardi. Al momento queste risorse non ci sono per fare questa operazione, e quindi occorrerà valutare appunto un contesto generale complicato dal punto di vista internazionale per possibili ripercussioni sui tassi di interesse, come vediamo ogni giorno sui mercati di borsa e tassi di interesse, e una situazione che ha visto il 2012 chiudersi con una perdita di gettito di 30 miliardi, come ha certificato la Corte dei Conti. Quindi siamo in una situazione, diciamo, di una stagione di risorse decrescenti, e dobbiamo mantenere fermo l'obiettivo, come ci ha detto anche oggi la Banca Centrale Europea, fermo l'obiettivo del 3% del deficit pubblico e non allargare ancora il debito pubblico. Quindi, diciamo, tutto questo significa che i margini di politica economica interna sono molto stretti, lo sono in Italia, e anche la politica in Europa è tutta da verificare, perché l'unica cosa che noi possiamo fare di utile in questa fase del 2013 e nei primi 6 mesi del 2014 è mandare in pagamento, ma effettivo, concreto, cioè nelle casse delle imprese, quei 40 miliardi che sono i crediti sbloccati della pubblica amministrazione, che hanno un impatto sui parametri europei, ma che sono stati accettati in Europa. Quindi questo lo possiamo e lo dobbiamo fare. Per quanto riguarda tutto il resto, tutta questa discussione che c'è anche sui margini ulteriori di flessibilità in Europa per un paese che è uscito come l'Italia dalla procedura di infrazione, vorrei ricordare due cose. La prima, che oggi il ministro delle finanze tedesche ha detto non è la strada giusta quella di sottrarre dal calcolo del deficit gli investimenti produttivi, cosa che invece noi, alla quale noi e anche altri paesi puntano. Secondo, ancora la Commissione europea non ha scritto nero su bianco i criteri per i quali possono essere individuati questi investimenti produttivi, e quindi questa è una partita che si sposta nel 2014. Quindi questa è la reale situazione. Da qui le difficoltà del governo, il quale però non può nemmeno permettersi di rimanere fermo, perché altrimenti, stante quella che è la caduta continua rispetto anche alle previsioni che sono troppo ottimistiche, la caduta continua del prodotto interno lordo, noi assisteremo di nuovo, diciamo, a trovarci in una condizione in cui forse dobbiamo intervenire addirittura per correggere i conti pubblici, che ovviamente per la mancanza di gettito si crea di nuovamente dei problemi, e questo alimenta ulteriore depressione e ulteriore recessione. Quindi è una spirale che dobbiamo spezzare, ma ovviamente questo serve una forte iniziativa in Europa del governo italiano, e anche una scaletta delle priorità molto sintetica ma molto chiara, con un messaggio molto forte, invece di continuare a fare una navigazione a vista sulla politica fiscale, rinviamo di 3 mesi, rinviamo di 6 mesi, sì. Questo lo possiamo fare, perché altrimenti l'opinione pubblica e i mercati questa navigazione a vista non la possono sopportare più. Questo, siamo arrivati a questo preciso punto. No, basta piccolo cabotaggio, perché poi Zanonato dice l'IMU l'abbiamo sospesa, sì, fino a settembre, ragazzi, non è che poi vediamo cosa succederà. Allora, molto chiaro il tuo ragionamento, Guido, la prima cosa da pagare sono questi 40 mila miliardi già promessi che Europa, certo, che possiamo fare. A mio avviso domani nel vertice si può anche iniziare a ragionare se tutte le politiche di defiscalizzazione, magari dei contributi per i neoassunti, devono entrare nel deficit anche quello, o sono una leva per far ripartire l'Europa, se no non so di cosa stiamo ragionando. Però nel salutarti dico una cosa: mi sembra che il tema della riduzione della spesa pubblica sia di nuovo scomparso dall'orizzonte anche di questo governo, Guido. Perché, insomma, 800 miliardi di euro, di cui 320 per pensioni e rendite, 132 miliardi per servizi generali, beni e servizi, aumentate del 35% queste spese in 10 anni. È possibile che non si riesca a tagliare niente da lì? Niente? No. Questa domanda.